presenta Ottimisti genericamente mortificati. Carissimi amici, avete sentito subito come parte il Gualdi che ti spara immediatamente questa... che bello, che bella aria fresca, che bella annusarla a pieni polmoni. Che poi voi ci scherzate perché noi lo prendiamo per culo, perché vabbè, tisico e tutto quanto, però deve essere una cosa terrificante vivere in questa maniera, non poter uscire di casa, non poter fare passeggiate. Salutiamo anche Walter Sbano. Ma scusa, perché lo facciamo uscire di casa e poi me devo mettere io al posto suo? Cioè, lasciamolo a casa. Lasciamolo a casa, è vero, hai ragione. Tra l'altro tu ti sei messo al posto suo perché se non lui c'ha il problema con l'aria condizionata. Appunto. L'aria condizionata che mi arriva, qui sul braccio. Se domani c'ho il gomito del tennista, mamma mia, sarà colpa vostra. Proprio la caca cazzuggine, proprio. Va bene, non so, non credo ci sia nessuno in chat. Anzi, infatti glielo fa fare. Pare di sì, c'è Diego Formogion, che è insomma nostro amico, e Lobby Frontali. Ma lo abbiamo annunciato a qualcuno che c'era alla diretta? Nel senso, io mi sono perso un pezzo. Sui gruppi Telegram. Anzi, ti ho domandato, ok. Quasi quasi lo faccio. Guardate voi un attimo. Così, Marco, senti, allora raccontaci il tuo, come dire... mio malessere. Il tuo malessere con l'aria condizionata di oggi, perché ormai il caldo è arrivato. No, l'aria condizionata è la cosa migliore che mi sia capitata negli ultimi 20 anni, guarda, cioè... Partiamo dal fatto che non respiro, sono costretto a respirare tramite un foro che ho tra le chiappe. O tramite un forum, io pensavo. Tramite un forum, visto che ci stiamo, che noi siamo talmente preparati, adesso stacco la mia cuffia, attenzione, attenzione, l'ho staccata, ecco. No, questo effetto papa col riverbero, col ritardo, eccetera, è inquietante, lo diciamo così. Attacco la mia cuffia, così, è una sorta di sforo, insomma. Ecco. Perfetto. C'è il nostro amico Diego che in chat ha scritto una cosa che potrebbe essere un'evocazione, ma potrebbe anche essere una bestemmia. Io comunque in ogni caso adesso... Dio inizia a esistere e benedica l'aria condizionata. Adesso visto che ho rimesso la cuffia riesco a capire quello che dico. Molto bello. Bello, questo è importante. Sì, sì, assolutamente. Ci tengo. Ma voi mi sentite? Io ho i miei dubbi che Gualdi capisca quello che dice, perché proprio, come dire, è una specie di ossimoro questa frase, non lo so, non mi torna. Io so tutto adesso. Allora, aspetta che potresti candidarti nei 5 stelle, lo dico sempre, quando è così. Penso di essere troppo avanti per i 5 stelle. Io almeno 7-8 ne voglio. Potresti 5. Essere appunto un precursore. No. Esatto. Come il piccolo chimico ci insegna, intendo. Ma io inizierei con lo sport perché da laziale devo dire che questa volta solidarizzo con la Roma, perché secondo me oggi la Roma ha subito un'ingiustizia. Allora non so di che stai scusate, dai, l'effetto condizionatore è che mi ci devo abituare, non so di che stai parlando. Spegnila. No, va bene, accesa, la voglio, solo che così. Beh, tu tossisci, quello sta nuda, cioè. Cazzo, no, ma passavo. Detto, nel microfono non è una bella cosa. No, dicevo, malatica. Cosa è successo? Ah, è successo che praticamente voi sapete che la UEFA si è pronunciata riguardo a quello che riguarda le eventuali ammende che bisogna fare al Milan. E che ha detto? Ha detto: noi non ci esprimiamo, aspettiamo il TAS, che sarebbe il Tribunale Sportivo Azzimperio, il quale oggi praticamente ha pubblicato tutte le udienze che ci saranno da qua fino al 24 agosto, nel quale Milan non ci sta. Quindi la Roma in automatico va direttamente ai preliminari di Europa League, quando in teoria se qualcuno si fosse espresso sarebbe andato direttamente a gironi. Posso dire una cosa? Gli fa anche bene, perché non sono particolarmente, come dire... soddisfatto di quella che è la gestione degli ultimi anni, per cui mettiamoci pure questa, ma beh, sta. Vabbè, ma che vuol dire, scusa? Cioè, nel senso, il discorso è che ci sono delle regole, allora io metto delle regole, poi dopo valgono per l'altro, non valgono per me. Cioè, allora, famo che non ci stanno le regole, io faccio quel cazzo che pare. Scusate, sta succedendo l'apocalisse in questo momento. Aspettate un secondo. Ce n'è un po' di musica. E niente, prende il Cottolengo, colpisce ancora. No ragazzi, io il posto De Gualdi non lo voglio, colpa, cioè ci deve essere una maledizione come di Montezuma. Montezumolo. La maledizione di Monterotondo. La maledizione di Montezumolo che... Montezumolo, zumolo. Qui stavamo dicendo, è una questione di regole, cioè nel senso... Beh, diciamo che non ha senso che non ci si, come dire, che non ci si esprima. E questo è proprio un qualcosa che lascia il dubbio, perché tu dici, ma un attimo, se c'è una procedura e va rispettata, perché qualcuno si può esimere da dover da esprimere un giudizio che sarebbe dovuto, soprattutto se poi effettivamente danneggi terze parti. Detto questo, vabbè, oh, che ti devo dire, certo perdono i soldi di qualche tournée in America, ma d'altra parte ci può anche stare, alla fine non sarà questo secondo me il problema della Roma, insomma. Invece parliamo un secondo, sono curioso, hai saputo anche tu, no, di questo nuovo investimento, andiamo all'altra sponda del Tevere, se avrei saputo anche tu di questo interessamento con un'offerta formale, un'offerta vincolante messa oggi da Lotito per acquisire una quota di Alitalia. Allora ci stavamo domandando oggi come potrebbe diventare la Alitalia di Lotito, come si potrebbe chiamare? Io voto Lotiter. Lotiter? Latiter è più, non lo so, me da quello è dopo. quando dirà bancarotta fraudolenta diventerà Latiteur, però Latiter. Latiter. Io mi immagino degli aerei molto puliti. Sì, beh, sì, pulissimo. Certo, chiaramente. Perché per chi non lo sapesse, il business di Lotito, al di là di essere il presidente della Lazio, lui ha delle imprese di pulizie anche grandi, industriali. Il suo business, il suo capitale parte pulizia da quello. E lui ripulisce, sì, beh, cioè, poi insomma si possono fare tutte le battute a sfondo riciclato, riciclistico che vogliamo, ma insomma quello è il business, quello è l'affare. Della secondo me si chiamerà Lazio Airways. Airways perché? Oppure rimarrà all'Italia e l'Italia. Vabbè, ma è ovvio che allora è ovvio che rimarrà all'Italia. Secondo me rimarrà all'Italia, che diventerà lo sponsor della Lazio e che però subentreranno le aziende di pulizia per dargli una sistemazione. Ado Titer. Guarda, io ho detto già in camera caritatis, io lo dico con dispiacere perché un amico che ci lavora in Alitalia fa supporto al personale di terra, ci lavora da tanti anni e mi immagino che oggi è la Mercedes, comunque cambiare sarebbe un problema. Però l'Italia è un'azienda che deve essere chiusa e basta, non importa chi la compra, si basa su un modello di business che ormai in Italia è anacronistico. I soldi all'Italia li faceva fino agli anni 80 con la tratta Roma-Milano, che costava un sacco di soldi, era tratta business. Oggi con un Frecciarossa non credo, oggi con un Frecciarossa spendi un terzo, ci metti meno tempo, perché il problema della tratta Roma-Milano non è soltanto il tempo di percorrenza, che con gli aeroporti devi andare prima a Fiumicino, partire, arrivare a Malpensa e poi tornare a Milano, quindi oltre ai tempi di volo, al check-in eccetera, ci sono anche i tempi per raggiungere gli aeroporti. E se invece ti sbagli finisce a Bari. Esatto, se ti sbagli, abbiamo visto, finisce a Bari. Invece con il treno da centrocittà a centrocittà ci metti 2 ore, tanto vale, insomma, no? Poi l'Italia non è così grande, non ha tutto questo bisogno di tratte aeree, secondo me. Ma quindi secondo voi, così a naso, che io non c'ho più il naso, quando noi invece di vendere francesi ai tempi dei Berlusconi facemmo, io e te, sì. Berlusconi fece la Good Company e la Bad Company, che ancora stava a pagare e pagheremo per sempre. Grazie Mercedes. Ma quello si farà una nuova. Secondo te volte. Hanno fatto una cazzata? Ma guarda, così che proprio in merito a questo tema, Lotito tempo fa, espresse delle, come posso dire, delle dimostranze. Insomma, cioè, sarà un po' incazzato, diciamo. Perché pare che lui aveva presentato già un piano industriale di salvataggio dell'Italia, e non se l'ha inculato nessuno. E allora lui dice, vabbè, ma invece hanno i francesi e cose, tutte le manovre strane. Ci penso io, no? Perché poi questo come fa lui, no? Ci penso io, no? Perché. Ma lei non si impicci perché i latini dicevano simpiltasis in the bogis. A proposito di latini, infatti il piano industriale qual è? Mettere soltanto piloti sudamericani che costano un terzo, giovani. Li prende dal Boca Junior. Dopodiché con una plusvalenza li rivende, che ne li so, vende a Lufthansa, Ryanair, a Lufthansa. Il meccanismo è tutto lì. No, vabbè, compra ragazzi, a poco da Ryanair e vende a tanto a Lufthansa. Probabilmente no, ma tra l'altro Ryanair, le low cost in genere sono il motivo per cui la nostra compagnia di bandiera non ha più speranza, perché sulle tratte che si possono coprire in Italia le low cost sono molto più vantaggiose. Fare Roma, che ne so, Roma-Palermo o Napoli-Palermo, Napoli-Milano con Napoli-Colera, qualcuno direbbe, con l'Italia nord. Costa 300 euro, con la low cost ne costa 50, cioè non... Tanto Gualdi, tu oggi dici lavali col fuoco e fra due anni te candidi come amico dei napoletani. Allora io lo faccio, io non ho nulla contro i terroni, anche perché noi siamo terroni, però lavali col fuoco bisogna dirgli, se tu vuoi il loro voto prima li devi insultare a morte, quindi dargli dei terremotati, dei colerosi, puzzolenti, ladri, truffatori, poi che hanno poco voglia del lavoro, di lavorare e anche di lavoro, poi dopo due anni sì, ma becchi migliori, perché ricordiamoci che chi disprezza compra, esatto, in entrambe le direzioni. Questo Salvini l'ha capito prima di tutto, perché prima di lui, quando c'era il senatore, disprezzava e basta, invece ha detto ma forse potremmo anche comprare, io più ti insulto e tu più me voti, cioè hai capito, è una cosa bella, cioè geniale, Ma senti, ma a proposito di Salvini, comunque la cosa triste, chiudendo un attimo anche questo capitolo, dato che era un capitolo aperto, è che quando ero ragazzino io Alitalia era una compagnia quotata, cioè, e senso, i treni arrivavano in orario, sì, aveva degli slot internazionali molto prestigiosi, ma soprattutto con gli Stati Uniti era una compagnia seria, però erano altri tempi, soprattutto era la compagnia col più alto standard qualitativo dal punto di vista della manutenzione. Erano gli anni in cui c'era Olivetti, erano gli anni in cui c'era l'Italia, erano gli anni in cui c'era l'ENI come grandissima azienda di Stato all'epoca, insomma era un'altra Italia, era quella del post boom economico, era quella in cui ancora non è che fossimo, come dire, gli ultimi degli stronzi. No, volevo dire un'altra cosa, che non è che fossimo scevri dal meccanismo, diciamo, rubereccio, maniereccio, però chi mangiava all'epoca si dava una regolata e faceva in modo di far funzionare un meccanismo virtuoso che poi alla fine gli permetteva di continuare a mangiare. Qui adesso lo dico, ormai è una retorica, questi non vogliono creare cibo, questi vogliono mangiare quello che c'è rimasto e poi Dio vede e provvede, insomma, senza crearsi il problema di cosa fare domani. Intanto oggi alla fine non è che ha creato boom, cioè alla fine si è mangiato tutto, quindi... No, ma io secondo me, da quello che ho capito, quello che intende Walter è che vogliono creare il Soylent Green. Che poi è la Soylent Green, sono picciato con la Soylent Green, che non ho ben capito, non conosco il termine, cosa che volete fare. Non conosci il Soylent Green? Io sono ignorante, però volevo dire una cosa. È la madre di tutti i riciclaggi, esatto. Tornando al riciclaggio. No, io volevo dire che invece poi oggi è successa un'altra cosa, perché sapete, c'è stato questo famigerato Consiglio dei Ministri e Salvini a un certo punto si è alzato e se n'è andato, perché gli hanno detto per l'ennesima volta che la questione è, i mini bot non si fanno fa, fine, sono illegali, gliel'ha detto Tria, sono illegali, la flat tax non si può fare, siamo già in mega deficit, ma che vuoi fa? E niente, lui ha rosicato come i bambini piccoli, o facciamo quello che dico io, o si gioca come dico io, o me ne vado via. E se n'è andato via, è andato a fare la solita direttina Facebook ridicola dal dove petto, è stato attaccato, dove è stato attaccato dagli pterodattili gabbiani, esatto, dai ragazzi, ma però ha colto proprio il punto e ha detto Roma ci saluta, ci saluta anche Mercedes, siamo arrivati al bar, che hai quattro amici al bar, stanno a fare gestire da bar, ormai quello. C'è rimasto solo quello, d'altronda era il formato originale della trasmissione, cioè. Non posso, te le hai rubate in misogero, mannaggia, ma cosa? Le carte per fare una briscoletta, già che stavamo va bestemmiando in giro. Brava, farò anche io. Ciao, ci vediamo tra poco. Ciao. Comunque faccio notare che per l'ennesima volta la Sea-Watch è andata a salvare 50-60 naufraghi nel mare aperto, e ancora una volta Salvini non se ne fa una ragione del fatto che qualcuno vada a salvare vite umane e grida allo scandalo. Nel frattempo vedo Gualdi che pippa la coca dall'altra strada. Che figata! Stiamo diventando una radio seria. Cioè abbiamo anche il cocainomane. Ormai ci manca soltanto quello malato del gioco d'azzardo. Ma abbiamo fatto Radio DJ. Quando è che ci danno ancora cose? PayPal, Patreon. Ma scusa, ma non ti arriva il reddito di cittadinanza? No, me lo a me quest'anno 50 sacchi sto mese. 50. Vabbè, ciao, ci vediamo fra un po'. Ciao. si va, hip hurra, tutti a casa si va, su e giù, giù e su, dalla lasca al pelo. Scusi Sbano, ma sta canzone, ma che merda è? Scusi. Guardi, okay. Aspetti, io non avevo le cuffie, me le rimetta. All'età della pietra. Com'è che è all'età della pietra? Ah, il piccolo Gon. Ma come, non ti ricordi? È uno dei cartoni animati, proprio uno dei primi, bello, che sono arrivati in Italia negli anni 80 nelle TV private, quando c'era il boom del fenomeno dei cartoni animati giapponesi, in cui chiunque voleva trasmettere un qualunque cartone animato giapponese, qualunque cosa gli passassero la trasmettevano, costavano poco, facevano contenti i bambini, riempivano i palinsesti. Sì, ma respira però, No, è perché se respiro muoio. Comunque ragazzi, noi le puntate del merda ne abbiamo fatte tante, cioè, no, ma questa... oggi c'è il destino che ci s'accanisce contro, dai, diciamo la verità. Oggi però sì, diciamo oggi non dovevamo uscire da quel fottuto ristorante cinese, non dovevamo uscire. Ma quindi forse i cinesi vi hanno dato qualche polverina? No, in realtà io abbiamo chiesto dei rimedi cinesi per l'allergia, quindi hanno cominciato a tirare corna di palle di rinoceronte, rinoceronte, poi hanno preso le palle di squalo. Alle palle di squalo ci siamo guardati e detto forse non funzionano queste cose, non può fare. Ma pure piscio di tigre, cioè. Vabbè, sono rimedi, come si dice, medicina tradizionale. Che poi potrebbe avere la stessa efficacia dell'omeopatia. Sì, tra l'altro mi chiedo ancora cosa aspettano a vietare l'omeopatia. Hanno stabilito che è acqua zucchero. Bene, a questo punto vietatela. No, è vietato fare pubblicità, ma si può vendere. Quindi se io vado in farmacia e trovo il farmacista che pur de guadagnare qualcosa in più mi appioppa, una volta mi è capitato in farmacia, avevo la tosse per l'appunto. Ma se io quindi ho chiesto un analgesico della tosse e mi hanno dato questo prodotto, vado a leggere la marijuana omeopatica. Cioè, è legale o no? Salvini si incazza o no, secondo te? Salvini si incazza a prescindere. Ma secondo me, se questo business non ne danneggia uno di qualche amico suo, no, non si incazza più di tanto. Se amico mio è la mafia, sì, si incazza. Tra l'altro, a proposito di mafia, ma quella è amica sua prima di tutto, quindi vabbè, di conseguenza è chiaro, se fa incazza a quella, fa incazza. Marco Gualdi è uscito dal ristorante cinese e ha letto il suo biglietto. Io lo leggo sempre perché io ci credo a queste cose. Che diceva, guardi il biglietto? Presto riceverai l'attenzione, attirerai l'attenzione di persone importanti. Che potrebbe essere il classico bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Sai, perché potrebbe essere importanti, può essere, che ne so, attiri il interesse, la finanza. Ecco. È quello che dico anch'io, guarda, sì. Potrebbe essere una persona importante che dice: oh, cazzo, guarda questo come lavora bene. Gli diamo in gestione 50 cantieri, oppure potrebbe essere il capo della polizia. Ma non lo so, Pizzi, perché forse tu non so quanto sia dentro alle realtà locali, però quelli famosi di zona sono tutti uno dopo l'altro, sono morti. A un certo punto c'è stato la moria. No, non conosco strozzini di zona. No, ce n'erano un paio abbastanza. A proposito di zona, solo a Largo Brenese. Giustamente l'ho visto che si è riciclato. Lobby Frontali ci ha chiesto giustamente: sì, ma poi com'è andato il ballottaggio? Ma io non ho capito se voleva sapere quello canonico o quello del Movimento 5 Stelle, perché noi 5 Stelle si è fermato. Sapete che oggi andiamo a votare al ballottaggio del Movimento 5 Stelle. No, non l'hanno fatto. Ah, allora, vero, perché al primo giorno non ci sono arrivati. Allora, no, però loro avevano diritto di scegliere gli altri candidati di mercoledì, perché il 29 di maggio si votava per le elezioni del sindaco e per il ballottaggio, tutto il 29. Ah, perché loro da una parte sono ritardati, da un'altra parte sono ritardati, ecco, sono i precursori, esatto, anche loro sempre per il piccolo chimico, sì. Quindi hanno fatto tutto il 29, cioè ci hanno provato a fare tutto. Comunque giustamente Diego ci fa presente che la marijuana omeopatica è quella cui... contro la quale si sta scagliando. Ma si sta scagliando perché ovviamente rovina altri business. Di conseguenza qualcuno gli ha detto: Matteo, questo non si può fare. Beh sì, come la storia degli appalti, diciamo. Però ragazzi, che storia triste. L'altro giorno mi trovavo proprio con un amico al localino, in centro storico, che aveva aperto da pochi mesi, neanche da un anno, che vendeva anche questi prodotti, che fortunatamente ha avuto la lungimiranza di aprire una versione ibrida, diciamo un micro pub, perché sennò altrimenti dice: ragazzi, io sennò mo avrei chiuso. E hai buttato migliaia di euro. Hai buttato tutti i soldi di un investimento. Le tasse nel frattempo però le devi continuare a pagare. TFR, hai fottuto il tuo TFR. Ma io credo e mi auguro che poi alla fine qualcuno si esprimerà in maniera da rendere da revertire queste sentenze, anche da? Perché revertire, invertirle, permettendo di riaprire questi negozi, però poi lancerei anche un appello dall'altra parte, perché lo dico sempre, bisogna essere anche oggettivi nelle cose, nessuno vuole danneggiare il business di chi ha investito in buona fede, però la buona fede deve essere reciproca, e quando mi vendi 2 grammi di camomilla a 30 euro al grammo c'è qualcosa che non va, perché... Non so, io questa sera faccio tutto sempre così. Devi sapere, Pizzi, che la marijuana, quella legale, quella la sativa, quella priva di... La sativa? Sì, la sativa, priva di THC, ma con una concentrazione variabile di CBD, che dovrebbe essere quel principio un po' più rilassante, ma non psicotropo, a seconda della concentrazione di CBD va a costare anche 20, 22, 25 euro al grammo. Senti, ma la concentrazione perché di? Quella è dentro di me. Piccolo ma concentrato. Forse non l'avessi dovuto dire, no. Vabbè, ma d'altra parte ogni tanto, insomma. No, invece, ragazzi, vabbè, niente, per spiegare poi al lobby che ce lo chiedeva, a Monterotondo ha vinto per il rotto della cuffia il candidato del centrosinistra, quindi del PD, con tutte le liste civiche associate, per il 51,5% contro il 58,5%, quindi circa il 3% ha ballato, ecco. Quindi stavolta veramente non se la sono vista, cioè, proprio... sono andati a in pochi, questo lo stai dire. Beh, intanto al ballottaggio hanno votato relativamente poche persone rispetto al primo turno, tutti quelli 5 stelle evidentemente, sapendo che si faceva tutto in una volta, non ci sono andati. Ma noi già votato chi ha potuto, è 29, quindi... Esatto, riprendi la scheda, rimettila nell'urna e vale 2 volte, no? Esatto. Vabbè, dai, ragazzi. No, vabbè, però insomma, basta politica, perché lo dicevamo oggi nella riunione prediretta, ci siamo anche un pochino stufati, perché poi uno diventa monocorde, poi politica. Sono anni che non si fa politica. È un teatro del grottesco, effettivamente. In compenso, invece, dicevo, però io 2 begli argomenti da citare ce li ho oggi, perché sono successe 2 cose a livello mediatico. È iniziata Chernobyl, la miniserie HBO che aspettavo da tanto, magari voi l'avete vista? Ma quale? È lenta. L'avete vista? Ma quella è lenta. Quale? Ma c'ha ragione di esserlo. HBO, la serie HBO, no, non l'ho su vista, Chernobyl. Ah, quindi non ne posso parlare specificamente. No, però in realtà non posso spoilerare niente. Cioè, sapete come va a finire. Esatto. Vabbè, ragazzi, ma il meme l'avete visto che girava, che diceva: sì. Questa potrebbe diventare la serie più apprezzata di tutti i tempi. Tant'è che in tanti già vogliono la seconda serie, perché gli ucraini tanto come la seconda serie della Lituania, dell'Ucraina, della Bielorussia. Ha detto, come dire, non lo so. Sto con un po' il naso. L'altro evento. La Lituania. L'altro evento che volevo citare, poi decidiamo se e come parlarne, anche perché questa non è videoludica, potrebbe essere un programma di Giletti, questa non è videoludica. È la presentazione, il trailer che anticipa l'uscita di Cyberpunk 2077, che è un gioco di Project Red, di CD Projekt Red, che sono i creatori di The Witcher, che stanno usando più o meno lo stesso motore open world della serie omonima, per farci un gioco in tema cyberpunk ispirato al gioco di ruolo. Ne abbiamo parlato in alcune altre dirette. E quando ho visto il trailer con Keanu Reeves, che peraltro è ufficialmente coinvolto nel progetto, c'è stata l'apocalisse di felicità. Nel frattempo è morto Waldi, va bene. Pizzi, ce l'hai la musica del coccodrillo? No, non ce l'ho, non sono pronto stasera. Mannaggia. Però vabbè, vai, continua. Sì, vabbè. Ma senti, ma parlando di cartoni animati, che c'hai in forno? Guarda... Cosa? E mica sei un licantropo. Vabbè. Vabbè. Oh, Angie Girl. Angie Girl, esatto. Non so chi sia, però va bene. L'esperienza della sua efficienza, investigando insieme a te. E niente, in pratica, Pizza, ti dicevo che Angie Girl è la nonna di Detective Conan. Ah. La bambina biondina antipaticissima che risolve i casi a Londra insieme a Scotland Yard, perché Scotland Yard, come nella migliore tradizione, ha soltanto investigatori pippe, e quindi ci deve pensare alla ragazzina di 10 anni, 12 anni con la sua arguzia. Non l'hai vista? È roba di quando eravamo tutto sommato ragazzini noi, non è roba moderna. Aspetta, quando ero ragazzino io era diverso quando ero ragazzino te. Vabbè, non dico così tanto, e non esagerare, insomma ci sono 6 anni di differenza, mica 70. 6 anni vuol dire che quando tu c'hai 14 anni io ho smesso. Ma a 14 anni ho smesso pure io, al limite la mu. Cioè, nel senso, insomma, non... smesso. Beh, vedi cartoni animati di quel tipo, sì, insomma, io ti parlo di tarda infanzia, a 14 anni, onestamente, poi ti devo dire una verità, la mia adolescenza l'ho passata molto per... può sembrare incredibile visto, diciamo, il personaggio, ma a giocare a pallone per strada, quindi... No, se faceva. Quello facevo, cartoni animati ne vedevo pochi, da bambino ne vedevo di più perché mamma, quando ero piccola, era un po' più protettiva, mi faceva uscire poco, ma poi, insomma, a una certa età mi sono rotto le scatole e ho cominciato a passare i pomeriggi a giocare a pallone, infatti in primo superiore un altro po' mi bocciavano, però vabbè, storia. No, vabbè, è giusto, perché noi siamo di quella generazione che ha fatto parte degli ultimi, penso, che giocavano per strada. Andavamo ai parchi, alle ville. Vabbè, io a Roma chiaramente c'era Villa Fiorelli vicino a casa mia, c'erano le siringhe grosse sì, come il mio braccio, però a Viale Somalia, quelle zone lì, c'era il parco di Piazza Gondar che era praticamente una piantagione di siringhe, però insomma uno sapeva dove stare. Sì, esatto. Sono sopravvissuti. Esattamente, poi voglio dire, lo ricordo davvero, i palloni incastrati sotto le marmitte della canzone di Bersani, questa cosa la ricordo veramente, lo zaino usato come pali, insomma sono cose che si sono perse completamente. Ormai i ragazzini quando stanno in giro stanno attaccati al cellulare a fare selfie magari, a fare qualunque cosa, ma di sicuro non stanno a giocare a pallone al parco usando i giubbotti come pali, i zaini come pali, che vuoi che sia, veramente è una cosa che è un peccato che si sta perdendo, perché non dico che ci sia qualcosa di male nel progresso della tecnologia, però perché dobbiamo perdere anche le cose belle di una volta? Perché non si può fare l'una e l'altra cosa? Ma diciamo che secondo me sta cosa è morta prima della tecnologia. È colpa di Sky, secondo me, che ha ammazzato il calcio. Ma no, ma più che altro è colpa delle mamme che diventavano sempre più ossessive. Più sempre, poi è pericoloso, ma era pericoloso quando uscivo io, no quando adesso che non c'è più nessuno in giro. Eppure lo sai che comincia a esserci una sorta, come dire, di fenomeno inverso, per cui mo le mamme cominciano a dire figli, ma che cazzo sta a fare tutto il tempo davanti al perché computer, davanti allo schermo, cazzo. Esci. Ho capito, solo che dopo che hanno creato la generazione degli occhi mori, dopo che non sono quelli con gli occhi scuri, gli occhi mori, okumori, non so bene come si dice, è quella, diciamo, patologia di origine giapponese per cui giovani adulti coscientemente decidono di vivere chiudendosi in casa senza uscire per nessun motivo. Sì, credo. E quindi sì, così. Sì. Che è qualcosa che però si sta un po' alla volta estendendo anche in Occidente in maniera magari meno netta, meno drastica, anche perché in Occidente fondamentalmente se non esci e vai a lavorare è facile che a casa ci mori di fame più che altro, quindi così. E vabbè, però insomma, Pizzi, tu hai visto il trailer di Cyberpunk? Allora, questo ultimo sì, ho visto che appare Keanu Reeves, che tra l'altro si è presentato sul palco, insomma, dire, a fare delle faccine ed essere contento perché lui sarà all'interno del gioco. Non so, partecipato ufficialmente alla produzione. Titolo di cosa? Cioè, nel senso, se sarà una cosa tipo un cameo veloce o se sarà un percorso. No, perché lui rappresenta, allora oggi facevo la battuta, non so se nei nostri gruppi, lui c'ha questa simpatica cosa per cui si chiama sempre Johnny, è Johnny Mnemonic, è John Wick. Il suo personaggio, che è tratto da uno dei personaggi di Cyberpunk, il gioco di ruolo, si chiama proprio Johnny, che è quello con il braccio, non mi ricordo se si chiama Silver Arm o qualcosa del genere. Johnny B. Good, quindi è l'ennesimo Johnny Cyberpunk di Keanu Reeves, che comunque sarà un personaggio credo abbastanza centrale nella trama del gioco. Comunque è Ikimori. Ikimori, grazie, non mi veniva. No, Locchi Mori. No, Locchi Mori, infatti, amore. Oh, ragazzi, abbiamo deciso. Ho recuperato Gualdi. Esatto, di dare al Gualdi un'ultima possibilità. Gualdi, di qualcosa. Sì. Sono ancora vivo. Non startunisco da 5 minuti e 43 secondi. No, non che qua senza arrivi, lo dico io. Vabbè, quindi possiamo parlare di Chernobyl. Però voglio la spilletta. Allora, si parla di Chernobyl, che l'hai visto solo tu, quindi. Vabbè, però ripeto, non c'è niente. Ma da spoilerare. Trama? Allora, la trama, cavolo, ho rosicato perché pare una cosa già vista. No, scherzi a parte. La trama è esattamente la ricostruzione dei fatti che hanno... Si parte da un minuto prima dell'esplosione di Chernobyl, dell'esplosione della centrale nucleare, che Lenin, adesso non mi ricordo il nome completo della centrale nucleare, che si trova a pochi minuti da Pripyat e a qualche minuto in più da Chernobyl. Però, diciamo, la città di riferimento era quella, quindi a tutto si dà il nome di Chernobyl. Nel primo episodio sostanzialmente si vivono le prime ore della tragedia, quindi è una miniserie da 5 o 6 episodi, forse 5, uno per sera, quindi abbiamo visto solo il primo questo lunedì, e ovviamente parla da un punto di vista abbastanza verosimile, tra l'altro con una maniacalità per il dettaglio della ricostruzione scenografica e della fotografia impressionanti. Io sono rimasto veramente veramente esterefatto per questo, per la qualità visiva della per la ricostruzione visiva degli anni 80 russi, non solo degli anni 80, quindi insomma con degli elementi basta con questi anni 80 sempre gli però anni almeno, 80. Non, almeno non c'era il solito swatch colorato e le spalline larghe insomma dei ragazzini dell'America, bene, c'era un'altra visione del mondo. Ancora non lo sappiamo, perché si è fatto un buco così al posto del reattore numero 4. Sarà uscito il sottomondo dall'altra parte. Probabilmente. Il fatto sta che il primo episodio, come dire, è centrato sulla fase di negazione, cioè quella fase durante la quale, alle prime ore, i primi minuti dopo l'esplosione, i responsabili della centrale, pur di non ammettere quello che era successo, cioè che c'era in atto una fusione, hanno cercato in tutti i modi di sminuire e sdrammatizzare, mandando poi a morire miserabilmente delle persone. Per versare l'acqua per raffreddare i condotti, per far abbassare le barre, eccetera eccetera. Quindi la prima puntata parla sostanzialmente la barra? Fa la schiuma, ma non è plutonio. Ok, la barra. Diciamo, quindi la narrazione del primo episodio si ferma a questi eventi. Ancora non sono entrate quindi in gioco, diciamo così, le istituzioni centrali, quindi non arriva l'esercito, non arrivano i ministri, non arriva Gorbaciov. Però insomma l'ansia anche visivamente è molto molto cruda come serie, perché non è di quelle che sostanzialmente trasformano la vicenda in qualcosa di inverosimile con effetti speciali strani, che è assolutamente molto molto realistica e cruda. Quindi si vedono queste persone ustionate morire, si vedono momenti di dramma, momenti di inconsapevole esposizione alle esalazioni tossiche, perché la gente andava a vedere questa esplosione di colori praticamente dall'altura della città, vicino alla centrale, quasi in estasi: guarda che bei colori, e intanto la cenere radioattiva li investiva. No, devo dire che veramente io ero abbastanza piccolo quando Chernobyl è successa, però insomma mi ricordo la paura, lo sconvolgimento, anche da noi in Italia, la gente l'insalata, non mangiate l'insalata, chiudete le finestre, sigillatevi, correte a comprare i prodotti a lunga conservazione, tipo mi ricordo gli scatolami, il latte condensato piuttosto che quello diciamo così pastorizzato, tutti questi prodotti quasi, no, niente, per doversi, niente carne, niente. Per doversi chiudere in casa chissà quante settimane. Poi, come abbiamo detto anche nell'altra settimana, no? In realtà la nube in Italia è un pezzo d'Italia, l'ha attraversato, però diciamo più propriamente il nord, nella zona, la zona del Piemonte e del nord-est, ha avuto effetti un po' più tangibili, tipo la Lega. Ha creato i leghisti, persone, c'è un'alta incidenza di problemi tiroidei. Noi al centro-sud tutto sommato siamo stati un pochino meno esposti. Poi chi vota la Lega? Poi noi il terreno ce lo siamo fracicato per conto nostro, non è servita Chernobyl, insomma, no. Però devo dire che è una serie che fa riflettere, c'è un cast notevole perché ci sono tantissimi attori molto bravi, uno tra tutti è, non ho l'elenco dei nomi quindi mi perdonerete, però c'è l'attore che ha interpretato tra le altre cose Moriarty, l'antagonista di Sherlock Holmes. Ah, oddio, l'odio quello. Non nella serie di BBC, nel film di Gay Ritchie. Ah, ok. Okay? E poi ci sono insomma altri attori molto bravi, che tra l'altro con un trucco prostetico veramente veramente fedele sono diventati ricostruzioni di questi personaggi. Aspetto di vedere Gorbaciov, sono molto molto curioso. Bello ragazzi, che vi devo dire, non vedo l'ora di vedere la seconda e le altre parti. Sicuramente, per fare la battuta, visto che Simone l'ha già fatta, sì, è una serie non particolarmente dinamica, perché per il tipo di narrazione che deve fare non aspettatevi una serie, una regia molto molto veloce. È una storia che deve dilatare in cinque puntate, comunque sia alcune ore, alcune giornate di dramma. Non è una serie che poi andrà avanti a raccontare mesi di storia, racconta i primi minuti, le prime ore e forse i primi giorni della tragedia, ecco. È una cosa tragica. Beh, oggi in chat, nelle varie chat Telegram, Danilo Giardino ha detto: ho visto la prima puntata di Chernobyl e devo dire che mi è piaciuta tantissimo. E io ho risposto: ora ho veramente la certezza che questa serie è una cagata pazzesca. No, scherzi a parte. Comunque sì, poi lo volevamo vedere pure noi ieri sera, però poi alla fine ho detto: ma chi ce lo fa fare, ce lo fa fare. Tu Gualdi sei curioso di questa serie? Sì, però non me la spoilerate, ho fatto bene, perché voglio sapere come va a finire, perché non la conosco bene questa. L'ho sentito parlare bene, chissà se poi si può andare a visitare, cioè è una serie esplosiva. Ci vuole andare? Guarda, io mi sto organizzando una parola grossa, però ce l'ho tra le cose da fare quanto prima, insomma, quanto prima, entro qualche anno. Ci sono delle agenzie viaggi specializzate che ti fanno fare i tour partendo dall'Italia, ti fanno praticamente, ti vengono a prendere in aeroporto, allora, mi sembra, a Kiev, e da lì ti puoi fare il tour di 24 ore, 48 ore, anche da 5 giorni. Perché prima, fino a 5-6 anni fa, praticamente, se entravi in determinati forum, c'erano questi tizi russi o ucraini, chiaramente, che si facevano chiamare stalker. Gli stalker, sì. Che ti facevano fare in maniera del tutto clandestina praticamente il giro per Pripyat. Era un tour che tu potevi fare al massimo per 2 giorni, quindi praticamente solo 2 notti. Uno perché c'era il pericolo di essere beccati dai, ovviamente dalle guardie, dai, chi cazzo si chiamano, insomma, no? E due perché chiaramente, cioè, nel senso, ci sono alcune zone che veramente ancora sono fortemente radioattive. Invece oggi ho visto su un canale, recentemente ho visto su un canale di questi che fanno urban italiani, che di solito non fanno mai le cose fatte in una certa maniera, che sì, oggi sono proprio i viaggi organizzati per andare, e anche lì devi fare sempre un po' minimo attenzione, perché diciamo che ormai ci vai effetti, con le scarpe che poi butterai, esatto, esempio, gli effetti, cioè, gli effetti adesso, diciamo, delle radiazioni sono tali per cui dove c'è per esempio concentrazioni di liquidi stagnanti e cose del genere sono ancora molto forti, però a livello, diciamo, di aria, di, diciamo, quindi di esposizione diretta, ce n'è molta di meno. Certo, non sono a zero, non si può vivere lì, ovviamente non si può bere l'acqua, non bisogna toccare niente con le mani nude, perché comunque sono tutti, diciamo, le mani in nude sono tutti, diciamo, resti che sono stati esposti per anni. Però diciamo, si può andare, si può visitare, è chiaro. Tu visiti in particolare Pripyat, che è il paesino, e alcune strutture circostanti, non arrivi nelle vicinanze della centrale, anche perché lì è stato costruito il secondo sarcofago di cemento armato, comunque non vedi niente se non questa struttura enorme. Però, diciamo, l'esposizione non è più particolarmente dannosa e di conseguenza... Beh, comunque se vedi su questo canale fanno vedere benissimo che in alcuni punti, cioè, ma tipo a distanza di 10 metri uno dall'altra, c'hai una differenza di 1.0, 0.5 a 7, 8. Sì, sì, perché ti ripeto, molto spesso basta un accumulo di acqua stagnante, un materiale particolare che magari ha assorbito più radiazioni o cose del genere, e quindi ovviamente i contatori Geiger evidenziano questa cosa. Però, insomma, io le anomalie sono proprio affascinatissimo dall'idea di andarci, e ripeto, prima o poi, prima possibile, compatibilmente con anche le, diciamo, le disponibilità, io questa soddisfazione è una cosa che voglio fare da più di 10 anni, quindi, insomma, mi auguro di riuscirci. È un po' come il famoso viaggio in Giappone che dico ogni tanto, quello è un po' più complicato, magari questo Pripyat a Chernobyl lo riuscirò a fare. Devo decidermi a rifare il passaporto, perché l'ho fatto una volta sola, poi non l'ho più usato, non ho mai usato in realtà, e quindi... tanto è valso non rinnovare. Vedo un Pizzi, lui ha dichiarato di essere appartenente al Partito Comunista Americano, quindi potrebbe essere una, sì, una cosa positiva in questo caso. Non lo so, i russi comunque con gli americani non è che ci vanno molto d'accordo. Appunto. Però secondo me ancora un retaggio del comunismo ce l'hanno sempre, insomma. Ma oddio, io l'Unione Sovietica, l'ex Unione Sovietica, la Russia odierna la vedo molto più a destra che socialista. Ma sì, ma era la stessa cosa lì, dai, cioè. Sì, a un certo punto gli estremi si incontrano, non c'è niente da fare, quello è vero. Però io a questo punto vorrei fare un attimo di pausa, perché questa è la canzone che ha segnato la mia vita. Vola, vola, vola, l'ape maia. L'ape maiala. Allora, era il cartone animato della mia infanzia. Cioè, volevo scusarmi con il volo dei frontali. Che scusami, è riuscito. Giustamente ci ha fatto lo spelling. Hikikomori. Perché se no, dice giustamente, ci ha detto tre volte. E che poi a Roma, se tu dici Hikikomori, cioè significa fa attenzione che te do due sganassoni. Vabbè, comunque, al di là di tutto, dicevo che questo è il cartone animato della mia infanzia. Tutti si guardavano Goldrake. Pizzi, tu lo continui a dire, noi cerchiamo di glissare, ma ci costringi a poi a dirti che insomma c'ho avuto una brutta infanzia. No, io sono contento di averla vista. L'ape maiala. Sono veramente contento di averla vista, perché secondo me è stato proprio un cartone animato positivo che insegnava ai bambini a voler bene al mondo. Non come quelle di oggi, di versioni dove mettono le ceppe di cazzo sui libri. Bravo. Che sono veramente strozzi. Beh, ma la Disney la faceva storicamente già negli anni dei grandi classiconi, no? Perlomeno, sì, ma... poi vai a sapere se hanno inventato loro il concetto di easter egg. Cioè, secondo me tu conoscevi un bambino della mia generazione e gli dicevi, ti piaceva più l'ape maia o l'ape magà? Da lì capivi che tipo di persona era. L'ape maga era un po' come il Pinocchio, quello della serie giapponese, di un'antipatia. Infatti, non so perché c'era quel filone di personaggi antipatici che i giapponesi avevano tirato fuori, di questi personaggi che si dovevano lamentare, piagnesi addosso e poi andare avanti malgrado il piagnisteo. Una cosa perché se ne andiamo addosso perché c'ha una storia del merda. Perché si suicida di basta. Attraverso la sofferenza poi raggiunge la perfezione. Esatto, giapponese. Sta cosa. Sì, il giapponese c'ha una dignità, a un certo punto si suicida. Sì, ma intanto sono assorto a guardare la mini gatta che gioca con il mio borsello. Sono entrato in modalità estiva, c'è il borsello light e il gatto ci sta giocando, insomma. Sei già stufata. No, sì, ti credi, la soglia dell'attenzione del gatto è variabile, ma tornerà. Sì, no, ma questa è un po' autistica sta cazzo. Non capisce gli input prima di tutto, poi uccide e distrugge. Vabbè. Ma tu lo dici anche di Gozzi, che è un po' autistica, un po' di fiducia, un po' di tempo. No, Gozzi non è autistica, purtroppo c'ha un problema proprio de spasticone, cioè nel senso non fa quello che fanno gli altri gatti perché proprio fisicamente non lo può fare. Sì, particolarmente non è, diciamo, sì, non è particolarmente prestante fisicamente, non ha proprio il physique du rôle, non è esattamente una cacciatrice di topi. Non prende le misure. Vabbè, poverillina, dai. Raga, parliamo di sto cartone animato. Quale? Per i più giovani, ricordiamo sempre che il Giappone, la tendenza di raccontare storie dove era più bravo a calcio, era più bravo a pallavolo, era più bravo a cricket, era più bravo a baseball, era più bravo a karate, era più bravo nel pugilato, era più bravo degli mortacci, sì. Ce l'hanno sempre avuta sta cosa, no? Sì, cercavano di elevare il popolo giapponese che all'epoca era nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra era piuttosto frustrato, creando questi personaggi che eccellevano a livello mondiale in qualunque disciplina, quando poi nella realtà non era vero. Ma perché, scusa, Shingo Tamai non ha giocato nel Real Madrid? No, ma no. La cosa però bella l'ha fatta. È che mentre piano piano questi cartoni animati in un certo modo si sono un po' sofisticati piano piano col passare del tempo, tipo che ne so, Holly e Benji era sì sempre una giapponesata, no? Però era una giapponesata un po' alla Pokémon, era divertente, cioè era colorato. Invece i Super Boys si rotolavano nel fango, voi, tutto voi non avete visto, piavano le pallonate in panza, i camion sulle gambe per rinforzare i muscoli, cioè, sì, diciamo era l'esatto opposto, nel senso che ti dava quella dimensione del calcio poverissima della periferia, la pemaga. È la stessa cosa, cioè, sì, attraverso la sofferenza raggiunge l'eccellenza, la perfezione. Infatti Oli e Benji è la pemaglia e i Super Boys sono la pemaga, che poi ricordiamo, io mi sono visto recentemente, allora a me i Super Boys quando ero ragazzo ci andavo matto, perché tutto ciò che era un po' le cose collegate al calcio mi piacevano e via dicendo. Però poi guardando questo cartone animato mi sono reso conto che questi giapponesi non capivano un cazzo delle regole del pallone, ma neanche facendo al giappone arigato esatto. Praticamente c'è una puntata dove un tizio tira sta palla che diventa de fuoco e va sulle, praticamente il portiere la para con le mani, le mani gli si spellano, perché ricordiamoci come... all'epoca non avevano i guanti, perché effettivamente c'era questa visione del calcio brasiliano degli anni 60-70 in cui effettivamente si giocava spesso e volentieri senza i guanti. Sì, ma anche se ce l'avessero avuti, comunque la palla era talmente potente sì. Che comunque avrebbe abraso tutto, anche le cose. E praticamente questo tizio finisce, quindi il portiere finisce con sta come un Chiellini, finisce con sta palla dentro la porta accartocciato e tutti rimangono in sospeso, e poi lui alza la mano dopo 20 minuti che tutti stanno, oddio cosa è successo, alza la mano e fa vedere che la palla non aveva toccato la rete e quindi non era gol. Vabbè ragazzi, neanche Mark Lenders riusciva a fare queste cose, no, per farti capire che insomma le regole erano un po' diverse. Però detto questo, recentemente mi sono rivisto la prima puntata su YouTube, se voi andate Super Boys italiano lo trovate, insomma, cioè, trovate tantissimi cartoni animati di quell'epoca, le trovate in puntate da 10 minuti, cioè tagliate in partita da 10 minuti, quindi di solito duravano 20-25 minuti in episodio, quindi di solito è la puntata 1 parte 1, puntata 1 parte 2 via. E vabbè, lui era proprio un pezzo di merda comunque. Un coglione vero, Sì, ma infatti lui era stato, diciamo, l'obiettivo era raddrizzarlo, dargli una disciplina. E poi andiamo a giocare a pallone, ovviamente. Dove oggi è assolutamente tutto tranne che disciplina. Però in quel telefilm fanno capire all'inizio... Cartone animato? In quel cartone animato fanno capire all'inizio che loro dei calcio non ne sanno un cazzo. Cioè, lo dicono proprio apertamente. Beh, ma... Sì, anche perché, tra l'altro, ragazzi, facciamo una precisazione. È uno dei tanti cartoni animati che da noi è arrivato negli anni 80, ma in realtà è una basissima vecchia. È stato prodotto credo tra la fine degli anni 60 e l'inizio proprio degli anni 70, dove c'era anche un minore accesso alle informazioni, alle immagini, e quindi in qualche modo i giapponesi all'epoca il calcio se lo sono immaginato più che, come dire, che essersi documentati. Tant'è che c'erano tutta una serie di, appunto, di licenze sulle regole, sul funzionamento di una partita di calcio, e poi ci si concentrava appunto sulla nascita dell'eroe. Ragazzi, ma che probabilmente sulla in Giappone c'erano quelle regole, magari. Oppure, cazzo, sì, certo. Del resto invece anche Mimì non è che fosse proprio diversissima. La prima serie di Mimì, che è la serie di Mimì Aiwara, non è molto più recente rispetto ai Super Boys. Pallonate in faccia, panza su Esise. Ricordiamoci il fidanzato di Mimì che muore cercando di fermare, se non ricordo male, un camion che stava investendo una bambina, prende questo colpo nell'addome e muore per un'emorragia interna. Insomma, all'epoca, ecco, cioè dovevano essere questi drammi, altrimenti... Io lo trovo giusto, insomma. Ma lui cercava di fermarlo con l'addome? Sì, era un sumoka. Ah, ok. No, sì. Per sapere. Lo voleva fermare proprio de panza, diciamo. Perché ha detto uomo de panza, uomo de sostanza, te faccio uomo de paranza. Buona paranza. E invece c'era un cartone animato bello che era affascinante a modo suo, ma era triste. Non so se voi ricordate. Che poi Ganga! Raccontiamo sta storia allora, design bruttissimo. Questo veramente penso anni 50. Anche questo è vecchissimo. Sì, è 60, 60, sì, certo. È l'epoca di Osamu Tezuka, quando, insomma, quegli anni lì. Allora, guardi la storia di sto povero Cristo. Charlie, che Chappie? No, Charlie. Ma no, quella Chappie è la maga, Robo. Ok. Ganga. No, ma lui non è triste. Allora lui è un lingotto. Cioè, un lingotto. Piuttosto che essere un lingotto diventi un robot gigante, è meglio essere un robot gigante. Però lui era comunque intelligente, cioè non era stupido. Cioè, no, io sono due metallo, sono grosso, che faccio? Grosso. A meno ai cattivi, è esatto. Giusto, bravo. Qua, a meno. Che la storia di questo ragazzo, questo bambino, sempre Charlie, che dice vendono un robot gigante. Ma io l'avevo spento. Sì. Ma è tornato. Aspetta, ci riprovo. Sì, perché capita, insomma, che ti regalano per una cosa, vuoi un pony? No, voglio un robot gigante. Voglio un robot gigante? Sì! L'avevo avuto anch'io da bambino, io quei robottoni. Attacca al cazzo. Non mi ricordo così la storia, però. No, perché praticamente era figlio di una aliena. Appunto. La madre era un'aliena che gli dà il pendaglio che poi serve a chiamare Ganga. Che si era portato sto lingotto di metallo vivente. Famoso, no? Si avvicinava al fuoco. E per farlo crescere lo mette vicino alla lava sotto l'acqua. E quindi esce fuori questa cosa. Vicino alla lava sotto l'acqua, che è un sì, po'. Sì, perché quando esce la lava. Ma lui, il robot, come fa a decidere di voler essere robot? Non decide. Non c'era un progetto che lui. Cioè, non me lo ricordo. Il progetto di un robot, guarda. Non lo so, perché c'era appunto questo concetto del metallo vivente. Io credo che lui fosse stato creato così nel pianeta natale. Non credo che ci fosse, come dire, la tecnologia umana di mezzo, anche perché all'epoca il concetto era solo controllarlo. Allora, Mercedes ci sta dicendo il telecomando è mio e me lo porto via, va bene. Se no lo buca. No, se no muore Gualdi. Vabbè, comunque. Poi guarda, te lo dico io, ti dico, le case si svalutano quando c'è muore uno dentro, poi se un giorno la volete vendere, non conviene. Vabbè, comunque poi alla fine sto cazzo di Astroganga. Sì. Poi alla fine si sacrifica pure, fa una brutta fine del coglione. Sì. Per salvare Charlie e l'umanità in generale. Che fondamentalmente io ne frega un cazzo, è pure un immigrato, de merda. Esatto. Cioè, in clandestino. Voleva bene al bambino. Però in Giappone c'era fortunatamente lo Ius Soli, per cui se tu nascevi in Giappone automaticamente era giapponese, anche se la madre era un'immigrata clandestina, aliena. Ma perché all'epoca non c'era Salvini primo come imperatore, sennò avrebbero fatto di Saruvini. Vabbè, scusate un attimo, ma secondo me sto quest'altro invece, in qualche maniera. Cioè io per esempio questo me lo confondevo con Già il fatto che questo cartone è uno dei primi che poi hanno lanciato tutto il filone della Tatsunoko, no? Già il fatto che l'arma finale di questo robot fossero che ognuno si doveva prendere testa e mani e piedi con l'altro, c'era proprio un concetto di un'ingenuità tecnologica, almeno fammi fare una trasformazione, falli unire in qualche modo. No, si univano mani e piedi e facevano questa specie di giravolta infernale che Boh, non lo so. Però funzionava. Beh, ho capito, perché c'era, come dire, lo stereotipo della puntata, che con quell'arma alla fine vinceva, col contatto Y vincevano. Come contatto? Sì, poi, tipo ginocchio positivo. Esatto, gomito e gomito e ginocchio gli facevano contatto, secondo me. Però vabbè. Invece questo che vi sto per proporre, secondo me, era uno dei più strani. Ah, bellissimo. Però era figo. Cioè, strano ma figo. Ragazzi, ma quante erano fighe le sighe che cantava Dan Meakin? Chi è? Questo. Che qualcuno pensava fosse Mal. No, si chiama Douglas Meakin. Mal. No, ma dico, parliamo di questo cartone animato. Parliamo di Barbie Junior, che è il principe del regno dei mari, praticamente. È praticamente Aquaman. No, però, perché? Scusa, c'è la torre del Babele, che dici? No. Quello è la Toriton, no, mi sono confuso, che poi... Sì. No, volevo dire una cosa, però giustamente dice Diego dalla diretta, non stiamo leggendo troppi messaggi in chat, scusiamo, cercheremo di recuperare, dice maledetta Gaijin, che si riferisce ovviamente alla madre di Charlie. Gaijin, sì, che è la straniera. Ah, ok. Oh, dice Diego, questo mi ricorda qualcosa, sì, è Babil Junior, appunto, questo con la trama, e Babil Junior ce l'ho abbastanza presente, però la trama no. La trama ce l'hai presente, ma la trama no. No, Babil Junior ce l'ho presente più il personaggio che la trama. C'era questo cattivo che era Yomi. Sì, che erano yogurt cattivissimo. Esatto, perfetto. Come quelli di Love, Death and Robots. Esatto, hanno yogurt andando a mare, forse millenario, non si sa. Che praticamente vuole conquistare il mondo. È una cosa originalissima. E vuole, non so, i segreti della Torre di Babele, cioè, buttiamocela lì. Ma e c'è stata Torre di Babele, che in realtà qual è il segreto della Torre di Babele? Che nessuno capisce, cioè, una tecnologia incredibile, che di tanto in tanto viene risvegliato un Babil, o viene creato, adesso chi cazzo se lo ricorda. E questo per salvare il mondo. E questa volta capita che deve essere il nuovo Babil Junior, deve essere sto tizio, sto ragazzetto che sta in Giappone, bucio di culo. Cioè, strano, cosa succede sempre tutto in Giappone. Ma che fate? Mi regalate un robot? No, te ne regalavo due. Mazza quanto sono brutti, stai zitto, siamo negli anni 60, accontenta di questi schifi. E quindi si ritrova ad un pterodattilo gigante e un robot che sembra un bidone della spazzatura. Sì. Vabbè, che dopo Super Robot 28 tanti robot erano da spazzatura. Però Poseidon, diciamo, gli dovevi rompere il cazzo. Sì, era uno che quando si incazzava. E poi gli regalano questa fantasia, da assistente Rodem, la pantera con mutaforma, che in realtà non ho mai capito se era la pantera o se era la gnocca bionda che compariva tanto tanto, che si trasformava in pantera, non l'ho mai capito. Ma soprattutto a Babil Junior che cazzo ce ne fregava. No, ma gliela secondo me la panterona prendeva ispirazione da quel film di Nastassja Kinski, lo ricordo, la pantera, che è proprio 30 anni dopo, però sì, che sì, forse ma i giapponesi lo sapevano. Io invece voglio il sapere bacio della pantera, voglio avere informazioni da voi di questa cosa, perché non, cioè, molti loro non mi dice proprio niente. Io però vorrei dire una cosa, non farei mai fare una canzone a un bambino con tutte le finali delle strofe che finiscono qua, no? Perché ma erano altri tempi, c'era un'ingenuità diversa. Ci pensavano. Ragazzi, vi ricordo sempre, Amica Sua è una canna fatta di magia, dopo di quello si può di tutto. Ma secondo me li avevano fatto pure apposta. Sì, ma secondo me in più occasioni, insomma. Oddio, cos'era questo? Ci domanda Diego, ma non so quando l'hai chiesto. Quindi no, parlava di Belfi e Lilibit, questa, perché è di adesso il messaggio. Che cazzo era? Non ricordo la sigla, ma non due ricordo la sigla. Due le orecchie grosse lì. Ma sì, che strano, me lo sono ritrovato in mano, una cosa del genere, mi ricordo. La sigla più o meno era questa. Cioè, deliziere con altre cose. Adesso vi do un'immagine qui in diretta che vi farà ricordare, perché vi saranno stati antipatici anche a voi. Ma no, cioè, li ho ignorati. mi ricordo di più Gli Gnomi della Montagna. Beh, Pizzi, ma una serie, qualche serie un po' più maschia. Ok, qualche serie un po' più masqua. Puoi mettere blu, no? A proposito di belle sigle di... Da... Stacca la M e diventa. Hanno tutti i pezzi, cioè belli progressive. Voltus 5 e il suo gemello con Butler 5, non so se ve li ricordate, sì, sono dello stesso autore. Che erano proprio dei caricolette che si attaccavano. Esatto, 5 pezzi volanti, carri armatini, eccetera, che si componevano in Voltus 5. All'epoca c'era il format ripetutissimo dei 5 piloti, no? Che in tutte le serie, a prescindere dal produttore, erano tutti uguali. C'era il protagonista assoluto, la ragazza, il bel tenebroso, il ragazzino e il ciccione. E da lì stereotipi a go-go. Esattamente. Qual era quella? Il cigno! I Gatchman. Invece adesso ne metto due. Che insieme, me però è quella la cosa bella, che se uno sopra l'altro, no, insieme non si può fare. Però Diego dice che siamo perversi, eh. Uno secondo me è stato uno dei più belli di quell'epoca, perché secondo me mischiava il combattimenti, i robot, tutta questa cosa qui, con l'ironia, l'ammiccamento, insomma, la sensualità. No. Cioè, questo era figo proprio questo cartone, perché c'era il maggiordomo, questi, c'era una macchina che era la valigetta, mi ricordo. No, la valigetta, ci stavano le armi. Sì, no, esatto, la valigetta volante. E sta macchina che rispondeva ai comandi. La Match Patrol. Loro due che erano due infatti, due Pizzi, una domanda. Beauty o Reika? Non sai, non mi ricordo bene bene. La bionda è Beauty e la Mora è Reika. La Mora, assolutamente. Perché Beauty era rincoglionita. Ho capito. Però era carina pure che era rincoglionita. Era la Barbie per definizione. Insomma. La Mora ci sta. Ma invece. E lui che era un coglione, perché era un po' la Darumo Roboshi. Vabbè, ma no, non troppo. Lui era un po' come il Latin lover della situazione. Sì. Non era tanto. Sì, vabbè, non era tanto pampano, insomma. Ma tu che lo sai, non lo sai. Invece, non voi Titan 3 se lo ricordano tutti, molte meno persone si ricordano Zambo 3. Tu dai, che perché le due cose sono molto collegate. Che era collocate. Di una malvagità quel cazzo. Zambo 3. Uno era quello della luna e uno quello del sole. Esatto, Titan era il robot del sole, Zambo 3 era quello della luna. Però la differenza poi sostanziale, entrambi hanno un finale non proprio allegrissimo. Ma Zambot invece finisce proprio male, praticamente devono scappare alla Terra, lui se non sbaglio Kappa muore pure o qualcosa. No, protagonista la bambina muore, muoiono tutti gli altri. Ah, ok. Erano Kappa. Tre, esatto. Gambe e torso muoiono, il robot invece si salva Kappa. Allora, sta da spoiler al finale. Mannaggia. No, no, vabbè, ma tanto Zambot 3 rispetto a Titan, ma quel cartolinato vengono sbloccate le bombe umane comunque. Sì, è vero. Sì. Era quello sì, sì, assolutamente, sì. Mamma mia, terribile. Credo che ne abbiamo parlato ampiamente nello speciale che abbiamo fatto. Inconsciamente stiamo rifacendo lo speciale sui cartoni animali. No, ma cioè che poi mi sono andato a rivederlo io quelle cose, perché cioè ero è di una cattiveria quel cartolinato. Troppo scioccato da sta cosa, cioè Magellano, chi era il nemico? Boh, non so. Di chi? No, Magellano era coso, era Briar. Coso, dico, pare, dico. Mi confondo con Roboleon di coso, poi di Roboleon era Robotano. No, era coso, Roboleon era doppiato da Alighiero Noschese, tra l'altro, così, Robotana. No, Roboleon era di coso, era di Daikengo. Vabbè, mai dello ter cazzo comunque. Adesso vi faccio sentire invece quella dopo per un motivo che poi vi dico dopo quando rientro. Non ve lo dico perché, aspettate. Non esiste più. Vabbè, a parte c'erano fatto una versione pure contro Berlusconi, praticamente, cioè, non ricordo pure questa cosa, no? E poi, vabbè, nelle discoteche, nelle feste d'estate, cioè, era quella super balladissima, super cantatissima, perché, cioè, proprio la, il brano ti fa impazzire, il brano così, dai, cioè, troppo divertente. Ma all'epoca i gruppi che facevano queste canzoni alla fine ci lavoravano, non erano, come dire, come adesso, con, sì, con magari fatto un cioè c'era per esempio, Pizzi, il riff di chitarra che attacca su Voltus 5 che hai messo prima è fighissimo. Rimettilo, il riff di chitarra con cui attacca Voltus 5 che hai messo prima, risentiamolo, è fighissimo. E devi ritrovarlo, gli hai fatto una... Voltus 5. Ah, c'è il Vulto, eccolo. Sentiamolo. Aspetta, allora... ci ascoltiamo a gentile richiesta il riff di chitarra di Voltus 5. Ma già. Non se ne trova una versione, scusate, pulita. Io entro così in maniera selvaggia mentre che Sbano parla e vabbè, ma tanto abbiamo detto che questa è una puntata che fa schifo e vabbè, di solito in radio non si riascoltano le cose che si sono già ascoltate, ma noi facciamo come cazzo ci pare, no? Sbano chiede, io obbedisco, però non si può non chiudere con questa, insomma, dai. Allora, di questo brano abbiamo raccontato tante volte molti manie, no? Vabbè, Luca Cacciola, che è quello che sa più queste cose, insomma, li conosce, il fatto che comunque c'è il tizio che è andato lì, l'ha depositato anziano, tanto, cioè, non c'era brevetto di nessuno, quindi... però è liberamente riproducibile il brano, questa è una cosa che, insomma, già è qualcosa, e quindi praticamente tutte le band la possono fare e anche incidere tranquillamente. Noi però senza metterla nel bordereau? No, la devi mettere, però comunque non c'è bisogno di pagare, anche perché non, secondo me non si sa chi pagarli i diritti. No, allora non si sapeva di chi erano i diritti, però c'è un tizio che alla fine è andato alla Rai e l'ha registrata lui, okay? Anche per levare tutti dagli Equini. Ah, però... ok, nel senso, non l'ha fatto nessuno prima di me, mi frego. Esatto, però non l'ha fatto a fini di lucro, lucrativi, perché in realtà il brano è comunque sempre liberamente usufruibile. No, ma tra l'altro, come vi dicevo prima nello stacco, pare, ma mi sembra ormai andato assodato, che non esiste un master di questa canzone, non c'è modo di recuperarne una versione pulita, integrale e utilizzabile, tant'è che la stessa Yamato Video sull'home video l'ha sostituita con la sigla originale giapponese o con una fatta successivamente. Vabbè, comunque questa è una bellissima sigla di un cartone animato meraviglioso, ragazzi, che sicuramente non era sua, però che io e Daniele Diretti, un mio amico, ci vedevamo in continuazione perché ci ammazzavamo dai risate, e poi perché in fondo perché ci ammazzavamo delle risate, dai risate, prevalentemente dai risate, e poi tutti siamo stati innamorati della musica. È un chi, po' sì, eh. Chi lo nega è un bugiardo. Che poi io continuo a dire, no, una ragazza in topless, in bikini vive a casa tua e tu la snobbi e tu vai a cercare qualcun altro, sei frocio. Cioè, proprio non può, no, ma non, cioè, non può reggere proprio. Anche perché, scusa, una ragazza in bikini che te la vuole dare. Perché sì, non, sì. Non è che dici, sai, non te pensa proprio. Una ragazza, no, figa in bikini che te la vuole dare. Sì, certo. Cioè, ci sono tutti gli elementi per. Anche se me mi stava sul cazzo. Ma era troppo perché dava l'idea di essere quella che rompeva il cazzo ad Ataru, perché Ataru andava perché a passare altre. Era pizzicosa. Però era il sogno di tutti. Ho capito, ma pizzicosa in bikini va bene. Infatti. Bravo Sbano, sono d'accordo però con te. Però bene, per cazzo te fulminava, cioè, non è che ma solo fulminava. Perché la faceva non incazzata, è che non era obbligata. Ti fulminava proprio, cioè, ma, dato da ragazzini c'era la teoria, no? Diceva no, ma Ataru scappa perché la muti dalla scossa. Non è che te la dà per forza, te la dà se te la vuole dare, se no ti dà un'altra cosa. Forse sai cosa? I due cornini potevano inibire un pochino certe cose. Ma no, ti ci attaccavi. Eh sì, dietro la pecornina. Vabbè, e allora andiamo, insomma. Sì, andiamo, che è meglio. Sì, è meglio andare. Alziamo un po' qua così. Vabbè, facciamo cose un po' a cazzo. E va bene, quindi ce ne andiamo a casa perché abbiamo dato il meglio di noi. La cancelliamo dalla storia sta puntata. Allora, noi abbiamo dato il meglio di noi in una puntata peggio della nostra condizione fisica. Ne eravamo preparati. Siamo arrivati tardi perché il cinese non ci portava da magnà. Gualdi muore, Sbano tossisce e via dicendo. Insomma, questo è il meglio che abbiamo potuto fare questa sera in una versione pre-estiva di una trasmissione che adesso ci metteremo qualcosa perché chiaramente dobbiamo fare le trasmissioni un po' svaccate. Anzi, se io volevo farla in piazza sarebbe pure meglio. Io vorrei fare una puntata, uno speciale sul mondiale femminile di calcio. Sì, che io ho già visto la prima puntata, poi la prima partita magari. Vabbè, lui andava a vedere, ci credo che era incazzata. Infatti, vedi, siamo d'accordo. Cioè, vedi, Diego, siamo amici su Facebook, non a caso, insomma, diciamo. Va bene, detto questo, io ringrazio Walter Sbano. Ciao! Bella per te. Bella pure per voi, io. Ringrazio e saluto, chissà, forse... Il fantasma di Marco Gualdi. Forse per l'ultima volta, Marco Gualdi. Ciao, se non ci vediamo più vi ho voluto in qualche modo bene. Lo chiamiamo Malcolm Gualdi d'ora in poi, che sembra più internazionale. Malcolm, bello, bello. Malcolm Gualdi. Poi Malcolm è un bel nome, io se ci avessi un figlio lo chiamerei Malcolm. Come Malcolm the Enterprise. Bravo, vedi. Malcolm Reed. Brutta fine. Quante ne sai, quante ne sai. Brutta fine. Non ha fatto la brutta fine. Ah, no, davvero non l'ha fatto. Quello era Tucker, quello che ha fatto la brutta fine. Ti ricordi in cazzo. Però lui si è inventato l'allarme rosso, quindi vabbè. L'allarme red, sì, esatto. Va bene. Che parla dall'allarme red, allarme red, lì l'allarme. Vabbè, come se cazzo. Prima non ci fosse stato storicamente allarme rosso. No, vabbè, è tutto il cazzo, guardi. Ciao. Buonanotte a tutti e ci vediamo alla prossima. Buonanotte al secchio. Ciao a tutti.